Thank you. o c'erano entrambi? Sì, forse quella è meglio, no? Sì, è meglio, sì, però non è meglio. Ora facciamo il secondo, primo concerto. Allora, scusate intanto per il ritardo di oggi, speriamo la prossima volta riesco a essere più puntuale. Io ho l'elenco del secondo anno, sono 37 persone. Come? 28. 28? Sì, sono una serie di... Adesso mi dite quelli che non vengono, così anche nei prossimi appelli. Allora, oggi 7. Allora, intanto Alessandro e Diego. Presente? Angiolillo? Rocco? Assente? Antonini, Valerio? Baclosi? Poi Bianchi, Massimiliano? Non verrà mai. Non verrà mai? Bianchini, Elisabetta? Bicchierà e Flavio, Bizzarri Francesco, Cappelloni Alessandro, Cariello Mattia, presente, Certo Ma Marco, assente, viene, Corcia Giacomo, De Pazzi Enrico Maria, Ettolini Tiziana, Evangelista Francesca, Filipponi Stefano, non verrà, Longobardi Laura, non verrà mai, Luca Ferri e Leonora, neanche, neanche neanche Maschiocchi? No, Masciocchi sono Masciocchi. Matteucci? Sì. Matteucci non c'è. E assente? Ragazzi, riuscite a fare un po' di silenzio? Perché, anche per fare l'appello bisogna alzare la voce. Ristretta Serena? Molinaro Marzia? Non vedrò mai. Non c'è. Muti Ludovica? E assente? Pietrella Luca, Pomponi Giulia, Congetti Danilo, Refice Camilla, Rimedio Attilio, Sanginetto Elide, assente, Sant'Agnello Enrico, Scagnello Fabrizio, Chidilliti Giuseppe, Sirpe Michela, Tedeschi Deanna, e Tomisani Lorenzo. Quindi diciamo quelli che non vengono sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'è un altro? No. Ok. Finisce a 2 minuti. Questa è una cosa. Ora bisogna capire come farlo funzionare. Dovrebbe già... Perché c'ha due tasti, uno computer e uno video. Uno video. Che impulsare, vedi? Vai con la freccia. Forse cambia di uscire al computer. Aspetta, eccoci. Questo non è proprio quello. Ah, forse no. No. Però lo può navigare su qua. Non può far parte della presentazione? Non so, non so perché è diviso in due. No, perché c'è l'altro telecomando separato. Sono due pezzi. Il telecomando è uno solo, quello che fa. No, forse cambiando. Se no cambierò da solo. No, perché. Come fa a andare così? C'è proprio una tragedia in questa stanza. No, sta girando se stessa. E anche l'altra si abbassa? No. Vabbè, ma tu non puoi calare. Sì, è ovvio. Perfetto. Bene. Ok. Allora, ci siamo messi d'accordo con Daniela De Goma, avete già cominciato con lei? Sì. Da quanto tempo? Una lezione. Che cosa vi ha spiegato? Un po' in generale. In generale, e infatti da quello. Io in realtà diciamo comincio sempre con una lezione generale per fare, diciamo, effettuare un piccolo approccio con la neurologia, che per voi è molto importante, però in realtà è un argomento anche molto complesso, abbastanza difficile. Quindi diciamo questa lezione, come ci siamo messi d'accordo con Daniela, che sarà una lezione introduttiva per capire un po' che cos'è la neurologia, di che cosa si occupa, quali sono, diciamo, qual è l'approccio del neurologo nei confronti del paziente, e quindi di darvi un po' delle linee guida generali che diciamo adesso, oggi forse vi sembreranno abbastanza complicate e difficili, però poi a fine corso il tutto deve essere incasellato come in un puzzle, quindi diciamo i vari tasselli poi si incastrano fino ad avere quella che è una visione un po' generale di questo argomento. Anche perché voi avrete a che fare con pazienti neurologici e ortopedici, quindi diciamo la neurologia è per voi è molto importante, e l'approccio deve essere un approccio serio, con delle basi anatomiche di fisiologia e di clinica importanti, perché diciamo la vostra figura è una figura, ha un ruolo fondamentale nel paziente neurologico. Basti pensare ai pazienti affetti da ictus, che noi lo vediamo dopo essere sostati da noi 4-5 giorni, diciamo il loro obiettivo e la loro speranza è quella di andare in una riabilitazione proprio per, diciamo, poi avere una risoluzione tra virgolette dei loro problemi. Quindi diciamo il vostro ruolo è un ruolo importante di cui dovete essere molto consapevoli, perché diciamo il paziente si affida a voi per se non per la guarigione, per diciamo un superamento importante dei propri problemi di disabilità. Quindi però il tutto da parte vostra non è possibile effettuarlo in maniera piena se non avete delle conoscenze proprio importanti, anche non è che dovete essere dei neurologi, ma dovete sapere la patologia con cui venite a contatto, il tipo di problema che ha, diciamo, causato la disabilità che voi poi andate a trattare. Per cui è vero che è un argomento, diciamo, difficile, ma è un argomento che deve essere affrontato da voi con estrema serietà. Quindi non solo le tecniche di riabilitazione, che sono, diciamo, quello che voi operate, ma tutto quello che c'è dietro alla patologia che voi andate ad affrontare e che diciamo, è alla base della vostra riabilitazione. Per cui ecco, io sarei contenta se voi affrontaste queste lezioni. All'inizio c'è un po' di sconforto, lo vedo sempre alle prime lezioni, no, è troppo difficile, poi mi cominciate a chiedere ma tutto questo lo vuole sapere agli esami, e lì un po' io mi deprimo quando mi fate queste domande, per cui le prevengo, non me la fate. Perché diciamo questo significa che poi l'interesse, no, è tutto relazionato al momento dell'esame, invece io spero che il vostro interesse vada oltre il momento dell'esame, ma sia proprio focalizzato alla patologia. Comunque, per quanto, quindi a parte questo cappello così di premessa, facciamo quindi un discorso generale oggi che prevede una visione un po' globale di quella che è la neurologia, di quello che è il neurologo, che va a fare, che non va a fare, e di quello che è l'esame neurologico, che è un esame diciamo, che va a esplorare varie funzioni, e già dall'esame neurologico il medico, appunto dall'esame neurologico e dall'anamnesi, può effettuare un certo tipo di inquadramento del paziente che ha di fronte, che poi può essere smentito o non smentito, diciamo, nelle patologie più eclatanti viene quasi sempre confermato, però ripeto, l'esame neurologico e l'anamnesi del paziente sono un momento molto importante per poi effettuare una diagnosi e quindi poi, diciamo, impostare una terapia, eccetera. Per cui, come in questa diapositiva c'è scritto, la diagnosi dei processi che interessano il sistema nervoso centrale, che cosa implica? Implica che venga individuato il sito, la sede che è responsabile della patologia che abbiamo di fronte, e quindi, diciamo, implica il riconoscimento delle modalità che sono di funzionamento del sistema nervoso centrale, quindi il funzionamento che è alla base del processo patologico e la natura del processo stesso. Quindi localizzare la sede della responsabile della patologia significa che viene individuata una parte anatomica, quindi focalizzato il nostro, incentrato il nostro interesse su quella parte anatomica che può essere responsabile del processo, e quindi questo richiede che uno sappia l'anatomia, sappia la fisiologia, e quindi solo in questa maniera ovviamente si può porre una ipotesi, perché non è detto che poi dopo, diciamo, sia sempre così, no? Perché le diagnosi non è che sono tutte semplici, anzi in neurologia è tutto complicato, però può porre il sospetto della sede di lesione e quindi il riconoscimento della natura della lesione stessa. Allora, quali sono le dica, sì. Metodologicamente, queste slide lei ce le darà? Ecco, questa è la cosa che io non volevo sentire dire. Purtroppo si adatti al fatto che per studiare abbiamo bisogno del materiale. Allora, io non do le slides, perché poi diciamo, voi studiate solo sulle slides e vengono fuori agli esami delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Tra le slides e gli sbobinamenti capiti e non capiti e trasmessi in maniera sbagliata ci sono. Allora, intanto queste slides mi sembra che già girino, perché negli anni precedenti ho visto fare delle foto, delle cose, eccetera. Per quanto riguarda i testi su cui spiegare e su cui studiare, i testi sono quelli classici, i pergamini, che è molto semplice, corso di neurologia, oppure il Fazio, che è un po' più complicato. Poi, diciamo, queste slides sono... Questa è un, diciamo, un discorso introduttivo, per cui non c'è bisogno di... Ci sono delle cose che casomai non trovate sui libri, e quelle ve le darò io direttamente, però non è il caso di oggi, insomma, va bene? Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, quindi, diciamo, le malattie neurologiche con cui veniamo a contatto e con cui verrete a contatto, quali sono? Sono prima di tutto le malattie cerebrovascolari, insomma, no? Quindi il grosso del vostro lavoro verrà effettuato sui pazienti che sono affetti hanno avuto un problema di natura cerebrovascolare. oppure pazienti parkinsoniani, oppure pazienti con neuropatie periferiche, con mielopatie, pazienti affetti da sclerosi multipla, pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, pazienti affetti da distrofie muscolari, o ancora pazienti affetti da malattie degenerative ereditarie. Quindi diciamo che il grosso delle patologie che sarete diciamo chiamati a trattare è questo qui, che poi comprende la gran parte delle malattie neurologiche. Certo, è ovvio, non tratterete mai un paziente con sclerosi con crisi epilettica, a meno che non sia un paziente che ha avuto un ictus e ha una crisi epilettica, perché la crisi epilettica non è di pertinenza riabilitativa. Qual è il ruolo del neurologo? Il ruolo del neurologo è quello di fornire delle informazioni sulla patologia, sulla malattia neurologica e sul trattamento ai pazienti, e poi a futuri operatori come sarete voi, e poi diciamo quello di promuovere la ricerca sul sistema nervoso centrale, sulle malattie, sul trattamento, in modo da apportare un aiuto diciamo serio alle patologie in questione. Un'altra diciamo fetta molto importante della neurologia è quella diciamo che adesso acquista sempre più importanza, e che sono le neuroimmagini. Quindi neuroimmagini, che cosa, a parte adesso la slide che c'è tutto, ma voi che cosa conoscete? Neuroimmagini, per neuroimmagini che cosa si intende? Neuroimmagini, che cos'è una neuroimmagine? Un nome, che cos'è una neuroimmagine? Una TAC, oppure una risonanza magnetica, ecco queste. Poi ancora un'angiorisonanza, una SPECT, una PET. Però diciamo le cose fondamentali sono TAC, risonanza, angiorisonanza. Queste diciamo le neuroimmagini hanno avuto negli ultimi anni un grandissimo impulso e ci hanno aiutato moltissimo nelle diagnosi. Spesso purtroppo diciamo adesso ci affidiamo anche troppo alle neuroimmagini, per cui prima di effettuare una diagnosi, diciamo porre un sospetto, si richiede subito l'immagine, visto che ce l'abbiamo a disposizione. Quindi diciamo un po' i vecchi neurologi si lamentano di questo, dicono che i nuovi neurologi diciamo non sono più capaci di fare diagnosi, perché non si sforzano neanche di farlo, visto che hanno le neuroimmagini. Quindi prima cosa diciamo chiedono l'esame strumentale. Quindi io vi ho detto che un ruolo importante diciamo nella valutazione del paziente è l'anamnesi, per cui l'anamnesi e poi l'esame oggettivo. L'anamnesi che cos'è? È la storia del paziente, prima l'anamnesi remota e poi soprattutto l'anamnesi prossima. L'anamnesi prossima diciamo che va a valutare qual è il sintomo di cui il paziente soffre, il sintomo che presenta al momento in cui viene valutato, la dinamica dell'accaduto che ha portato a quel tipo di sintomo, e se questo sintomo ovviamente si è modificato da quando è successo a quando viene osservato, no? Spesso per esempio noi ci troviamo ad affrontare i pazienti in pronto soccorso, ci chiamano paziente anziano trauma cranico, no? Uno paziente anziano trauma cranico. Allora, che cosa è successo? Si va dal paziente e si dice, che ne so, allora, che cosa è successo? Ha avuto vertigini, è inciampato, perché le cose possono essere varie e cambiano notevolmente. Conto che il paziente è inciampato, caduto, battuto la testa. Un conto è che il paziente si è sentito male, quindi ha perso completamente il controllo e si è ritrovato a terra, casomai si è svegliato dopo un po', quindi le cose cambiano completamente. Nel primo caso diciamo una dinamica accidentale, nel secondo caso presuppone tante cose, presuppone che il paziente si è sentito male, è caduto a terra, non si è accorto, ha battuto la testa, può aver avuto una crisi epilettica, quindi diciamo l'anamnesi, vedete, è molto importante. Se il paziente, anche se è anziano, mi dice no, io stavo camminando, ho inciampato contro una sedia, non ho retto l'equilibrio, sono caduto, ho battuto la testa, questo mi indirizza diciamo verso una caduta accidentale. Se il paziente mi dice io mi sono alzato dal letto la notte per andare in bagno e poi dopo di un po' mi sono ritrovata a terra e non mi sono accorto di niente, avevo una ferita sulla testa, ho visto il sangue, capite bene che le cose sono completamente diverse, no? Perché il paziente si è alzato, evidentemente ha avuto una perdita di coscienza perché è caduto a terra, ha perso conoscenza, ha battuto la testa perché ha avuto una perdita di coscienza, può aver avuto una crisi epilettica, quindi diciamo che l'anamnesi già ci inquadra, no? Verso una cosa o verso l'altra. È ovvio che un paziente con caduta accidentale che non ha perso conoscenza, che ti richiede, ti dice esattamente quello che è successo, io non mi pongo il problema che ha avuto un accidente cerebrovascolare. Nel secondo caso sì, quindi nel secondo caso subito un attacco, una risonanza, un'autorisonanza per vedere se c'è stato appunto un ictus e intanto valutare il paziente se presenta dei deficit di forza da un lato, no? Proprio per capire se c'è stato un evento ischemico che può aver giustificato il tutto. Quindi vedete come le cose, cioè una chiamata per un trauma cranico in un anziano per esempio può implicare delle cose che sono completamente differenti l'una dall'altra, va bene? Quindi l'anamnesi. E infatti l'anamnesi, il paziente può riferire per esempio una vertigine, lui gira la testa, può essere diciamo la vertigine, si dice che è la morte del neurologo e dell'otorino, perché la vertigine può comprendere tutto e niente. Allora, la vertigine addirittura può essere il prodromo di una crisi epilettica. Paziente che dice mi sento la testa che mi gira e poi a un certo punto un senso di nausea allo stomaco e non ci capisco più niente, mi ritrovano a terra, svenuto, eccetera. Quindi può essere l'inizio di una crisi epilettica. Oppure può essere una vertigine periferica banale, cioè il paziente dice io sono nel letto, se mi giro a destra e a sinistra di scatto, a un certo punto mi gira tutta la testa. O ancora il paziente che vi dice io sto nel letto la notte poi mi devo alzare per andare in bagno, se mi metto in piedi mi sento che tutta la stanza mi gira, cioè la vertigine, mi devo risedere di colpo, eccetera. O ancora può essere il prodromo di una lipotimia o di una sincope. Il paziente si mette in piedi, cioè la vertigine, e poi perde conoscenza, ma non perché ha una crisi epilettica, ma perché ha una sincope. O ancora può essere il sintomo di un'astenia, il paziente che è talmente debole che a un certo punto ha una sindrome vertiginosa. O ancora può essere addirittura un problema, diciamo, di somatizzazione dell'ansia, il paziente con attacchi di panico a un certo punto comincia con una sensazione di malessere, di vertigine, di soffocamento, di palpitazioni, famedari, eccetera, e quindi diciamo essere inquadrato in un problema completamente diverso. Quindi vedete che il sintomo si può prestare a varie interpretazioni, non solo, ma può essere il sintomo di patologie che sono completamente differenti l'una dall'altra. poi quindi diciamo poi sempre nell'ambito dell'anamnesi si chiede al paziente qual è il primo sintomo, qual è stato il primo sintomo, se questo sintomo si ripete, si è ripetuto, se è stato unico o ancora l'anamnesi spesso non è possibile rilevarla dal paziente, no? Nei pazienti anziani loro non ti sanno dire niente, soprattutto se hanno avuto un problema importante vascolare ovviamente non sanno riferire niente, per cui occorre, molto importante, l'aiuto dei familiari che raccontano la dinamica se erano presenti, poi se non erano presenti la cosa diventa più complicata. Ovviamente c'è poi anche il rischio della simulazione e dissimulazione, però questo lo lasciamo da parte. Quindi diciamo nell'anamnesi occorre ricordare se la cosa si è verificata di giorno, di notte, cosa stava facendo, se erano presenti delle persone, quanto tempo è durato il sintomo. Questo è importante perché anche per esempio nelle malattie cerebrovascolari ci sono dei sintomi che durano pochi minuti o addirittura 12 ore e poi regrediscono completamente, invece dei sintomi che durano più a lungo, e quindi invece di parlare di TIA, per esempio attacco ischemico transitorio, dobbiamo parlare di malattia cerebrovascolare, di ictus, eccetera. Poi, quindi, i sintomi se permangono, se sono insorti degli altri, se sono regrediti, se il disturbo è ricomparso dopo un po', oppure ancora che cosa peggiora o migliora il sintomo, no? E qui ci sono delle domande che vengono fatte, no? Per esempio, se il sintomo viene peggiorato dalla temperatura, cioè se è freddo, se nel caso dell'emicrania ci sono dei cibi che scatenano l'emicrania, o ancora l'alimentazione, il fumo, eccetera. Poi ancora richiedere sempre al paziente quali sono i fattori di rischio, che sono la familiarità per un certo tipo di patologie, l'abuso di alcol, di fumo, di droghe, e di farmaci, eccetera. Per esempio proprio questo mese, durante una delle mie ultime guardie, è arrivato un ragazzo, vedete quanto è importante l'anamnesi, è arrivato un ragazzo giovane, addirittura studente di medicina di 23 anni, che insomma era stato presentato come un paziente che aveva avuto una cefalea, per una cefalea diciamo che era un po' persistita nel tempo, una cosa diciamo un po' particolare, una cefalea, forse un'emicrania con aura, cioè ci sono delle emicranie che simulano addirittura un deficit di forza, di parestesia e tutto quanto. E quindi diciamo l'avevamo tenuto in osservazione, però poi l'avevamo fatto salire il reparto proprio perché non era molto chiaro il sintomo, anche se poi lui in realtà non aveva deficit di forza, non aveva deficit di sensibilità, aveva avuto un po' un impaccio nell'occhio, ma insomma a 23 anni uno non pensa a un ictus. E siccome anche le cefalee possono dare, no, impaccio dell'elopio, non so se qualcuno di voi è cefalalgico, durante la cefalea c'è una certa difficoltà a esprimersi, no? Cefalee, parlo di cefalee importanti, non di mal di testa classico, eccetera. Questo paziente, quando è salito in reparto, ha cominciato a presentare un disturbo dell'elopio molto importante, era diventato disartrico, non riusciva a pronunciare bene determinate parole, quindi diciamo sembrava proprio un ictus in corso. Certo, è difficile pensare a un ictus, no? In un 23enne, fattori di rischio, non ero obeso, non era iperteso, non era diabetico, insomma giovane e tutto quanto, per cui se abbiamo fatto le classiche domande di routine, ma che fa, beve, fuma, eccetera, e poi la domanda così anche fatta con una certa timore, no? invadere un po' una sfera personale, eccetera, se aveva assunto delle droghe. Per cui a questa domanda fatta con una certa, insomma, soprattutto avevamo fatto ai genitori che stavano lì presenti, loro ci hanno risposto tranquillamente sì. Quindi capite bene che aveva avuto un ictus, ha avuto un vasospasmo dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Questo ovviamente ci ha completamente cambiato tutto il quadro, per cui abbiamo fatto fare subito angiotac, angiorisonanza e tutto quanto, e in effetti continuava ad avere dei vasospasmi legati probabilmente all'abuso di sostanze, ha avuto un ictus nell'area del linguaggio. Quindi capite, questo per dirvi quanto importante poi l'anamnesi e come ci può indirizzare in un senso o nell'altro, e indirizzare nelle fasi precoci è molto importante perché poi attiva tutta una serie di procedure, no? Che casomai uno in un'altra occasione non avrebbe attivato. E... è ovvio che voi non è che dovete fare l'anamnesi del paziente e tutto il resto, però è importante per voi conoscere un po' meglio quella che è la neurologia in tutte le sue, diciamo, sfaccettature. Allora, una cosa più importante per voi è l'esame obiettivo neurologico. L'esame obiettivo neurologico non è che siete tenuti a fare, però, diciamo, ecco, se voi avete un paziente e in cartella c'è scritto paziente con deficit di forza, sottosnivellamento alle prove antigravitarie, positività di intrazzini, degli arti superiori e degli arti inferiori, sapete già di che cosa si sta parlando. Allora, quali sono questi segni e sintomi? Abbiamo dei segni positivi, dei segni negativi. E anche i sintomi possono essere positivi e negativi. Allora, segni positivi, un aumento dei riflessi, che diciamo, questo aumento dei riflessi in condizioni normali, quando il paziente non ha deficit di forza, può essere anche un aumento dei riflessi in un paziente così che ha casomai di quelli ansiosi un po' ipereccitabili, però in genere l'iperreflessia è un segno di un segno, diciamo, che ci indica che c'è una sofferenza del sistema nervoso centrale, per cui c'è un aumento dei riflessi perché c'è una iperecitabilità a livello del sistema nervoso centrale, quindi una iperreflessia è un problema di natura centrale, a differenza di una iporeflessia che invece è un problema di natura periferica, per cui pazienti con sofferenza del sistema nervoso centrale hanno i riflessi molto vivaci. Pazienti con problemi del sistema nervoso periferico, tipo... Come? Non ho capito. Paralisi dello speo, oppure molto più semplicemente... radicolopatie oppure neuropatie periferiche, eccetera, hanno una riduzione dei riflessi e soprattutto nelle ernie, eccetera, una assenza dei riflessi, quindi aumento dei riflessi, sistema nervoso centrale coinvolto, diminuzione dei riflessi, sistema nervoso periferico coinvolto. Va bene? Spesso quando facciamo per esempio un sospetto di un'ernia S1, no? Classiche, le 4 e le 5, oppure S1, andiamo a fare il riflesso sull'achilleo ed è assente da un lato, dall'altro è presente, quindi diciamo che la radice S1 viene coinvolta, oppure sul rotuleo, quindi iporeflessia del rotuleo ci dice che c'è un problema a livello di L4. Poi abbiamo, questi sono i segni, cioè delle cose visibili, per cui il riflesso c'è, non c'è, è iperecitabile o è ipoellicitabile. Invece poi abbiamo i sintomi. I sintomi sono positivi e negativi, come una parestesia paziente riferisce di sentire un formicolio oppure una rigidità, diciamo alla mobilizzazione passiva, il paziente è rigido, oppure nella deambulazione si vede che, diciamo, ha una rigidità del tronco, oppure molto più facilmente degli arti inferiori, un tremore, la spasticità, eccetera. Questi sono i sintomi positivi. I sintomi negativi sono una ipoestesia, il paziente sente di meno in una determinata area, oppure una ipostenia. Che cos'è l'ipostenia? Com'è? Deficit di forza, quindi diminuzione della forza. Diminuzione della forza che può essere segmentaria, no? Oppure antigravitaria, poi lo spiego. Scusi una cosa, ma c'è la ipostesia e l'ipostesia non sono anestesia segni che sintomi, nel senso. Cioè in ogni com'è? Caso, da quello che ho capito, i segni sono oggettivi e i sintomi soggettivi. Sì, non solo, però i sintomi possono essere soggettivi ma anche oggettivi. L'ipostenia, per esempio, non è solo un deficit soggettivo, perché se uno mette il paziente in Mingazzini e slivella, certo. Il paziente, no, il paziente può dire io mi sento meno forte, e allora è un sintomo. Tu lo metti in Mingazzini e non c'è un deficit di forza. Però può dire mi sento meno forte perché in Gazzini c'è un sottoslivellamento, e quindi a quel punto da sintomo diventa anche segno. Va bene. Questa è un po', diciamo, introduttiva. Allora. Per quanto riguarda l'esame neurologico del paziente, la prima cosa che si fa è lo stato mentale. Allora, la prima frase che si scrive è: paziente lucido, orientato nel tempo, nello spazio, nelle persone, l'occhio fluente, eccetera. Quando non lo è, paziente non lucido, poco orientato nel tempo, può essere poco orientato nel tempo, orientato nelle persone e viceversa. Molto spesso non sanno dove si trovano, però sanno riconoscere chi è il figlio, chi è la moglie, come si chiamano i nipoti, eccetera. Ovviamente ci sono, nello stato mentale vanno prese in considerazione anche la scolarità del soggetto, quindi l'ambiente culturale, eccetera. E poi va tenuto a conto anche del fatto che il paziente si trova in un ambiente nuovo, quindi c'è una certa reticenza dentro le cose, cioè, però comunque se è lucido e orientato si evince dalla conversazione. Poi addirittura si può fare, diciamo, un esame un po' più approfondito se noi vogliamo vedere se effettivamente è lucido o meno nel tempo e nello spazio. Allora si dice che giorno è oggi, che mese è oggi, e mi dica i mesi dell'anno al contrario partendo da oggi, oppure si fanno fare dei calcoli, no? Dei calcoli prima semplici, poi calcoli sempre più complicati, insomma, per valutare lo stato mentale, quindi poi il tempo, lo spazio, le persone, dove siamo, che giorno è oggi, le persone che ha di fronte, eccetera. Poi va valutato il linguaggio, quindi il linguaggio, se c'è una comprensione integra, però poi una espressione non normale, oppure ci può essere una produzione non corretta, o ancora una afasia mista, o ancora ci può essere solo una difficoltà nell'articolazione delle parole. Tutto questo poi lo faremo in seguito, ma immagino che voi il discorso delle afasie l'avrete già affrontato, lo affronterete in maniera dettagliata con chi? Con Nocentino, no, con Centallesimo forse. centini per lei, sì, loro si occupano di afasia. Poi ancora va valutato lo stato mentale, la memoria, va diciamo effettuato un test di memoria a breve termine, a lungo termine, va fatta una rievocazione immediata oppure postecipata, oppure a lungo termine, chi è il Papa, chi è il Presidente della Repubblica, quindi il calcolo, le attività verbali, le parole, le sequenze motorie. E poi diciamo, dopo questo approccio diciamo che comprende lo stato mentale del paziente, si va all'esame obiettivo neurologico vero e proprio, quindi stazione retta e deambulazione. Quindi dopo aver detto paziente lucido orientato oppure paziente non orientato, disorientato, afasia, afasia mista, afasia espressiva, afasia, si va a valutare la motricità. Quindi il paziente è capace di mettersi in piedi, è capace di deambulare, quindi deambulazione possibile, oppure deambulazione possibile solo con appoggio, o ancora deambulazione possibile con singolo appoggio, o ancora deambulazione possibile con doppio appoggio, o ancora deambulazione non possibile. Nel caso in cui il paziente è capace di mettersi in piedi, si fa la prova di Lomberg, cioè il paziente viene messo in piedi, si chiede di chiudere gli occhi e si osserva il paziente ad occhi chiusi. Quindi se il paziente ad occhi chiusi, una volta che viene privato di quello che è il controllo visivo, riesce a stare fermo oppure presenta delle oscillazioni in avanti, indietro, laterale destro, laterale sinistro, o ancora presenta delle minime oscillazioni senza prevalenza di lato, quindi senza che prevale un lato anziché un altro. Poi ancora la deambulazione, se è possibile una deambulazione sulle punte o sui talloni, punte e talloni. O ancora va valutata l'andatura, se è un'andatura steppante, falciante, anserina, atassica, spastica, piccoli passi. Allora, ognuno di quelle deambulazioni corrisponde a una patologia. Ragazzi, ma c'è quel quartetto là dietro, mamma mia. Loro due o vi disturbano oppure pure voi o passate avanti. Ma vi siete già stufati? No. Allora, andatura anserina, la conoscete? Di quale patologia stiamo parlando? Deficit. Come? Non ho capito. Anserina, sclerosi multipla. Non è proprio della sclerosi multipla. Deficit, sì, dei glutei e delle distrofie muscolari. O ancora steppante. L'avete mai vista? Quello che alza l'anca quando c'è l'equilibrio per recuperare l'equilibrio da un lato. Piede cadente. Poi ancora falciante. Le falciante è la vostra. Emiplegico. Atassica. Non solo. Qui è inizio. Eccitante. Una patologia che ha un'andatura tassica cerebellare, giusto? Poi ancora spastica, in genere a tasso spastica, spastica in generale, tetra moderata, pure tetra moderata, cioè tetra moderata. Che significa tetramoderate? Tetraparesi, circolanti, moderate. Avete ovviamente un altro linguaggio rispetto al nostro, avete quello dei fisioterapisti. A piccoli passi. È l'unica che ha piccoli passi. Poi dopo la spiegheremo nel dettaglio. Poi no, ancora usare l'obiettivo neurologico della colonna cervicale e lombare. Beh, questo è il vostro argomento. Dolore e limitazione della motilità del collo e della colonna lombare, oppure motilità del capo, va fatta la motilità del capo, della colonna lombare in flessione, in estensione, in intra-extra rotazione per valutare tutti i muscoli. Ancora la palpazione dei processi, la pressione dei processi spinosi, non la facciamo mai in realtà. E il segno di Lasek, sapete che cos'è? Che cos'è? Quindi che si chiede al paziente, si alza la gamba e si vede se compare dolore e a quanti gradi compare questo dolore. Quindi la SEG può essere positivo, può essere negativo e quindi diciamo si dice anche la SEG positivo a 40 gradi, a 60 gradi. Poi abbiamo l'esame neurologico dei nervi cranici, che vi cito soltanto, tanto poi li faremo in dettaglio. Quindi, li conoscete i nervi cranici? Almeno il nome? Avete fatto? 12 paesi, infatti, perché con un motore, proprietario, trigemina, autocente, facciale. Allora, il primo nervo cranico è il nervo olfattorio. Poi abbiamo il nervo ottico, che è il secondo. Poi abbiamo gli oculomotori, che sono il terzo, il quarto e il sesto. Quindi controllano la motilità oculare estrinseca. Poi abbiamo il trigemino. E poi? Facciale, poi? Questi globuli e il grosso faringeo, poi vago, accessori grossi. Bene, poi ancora esame obiettivo della motricità. Che cosa facciamo noi? Facciamo prima di tutto la prova di forza. Quindi le prove antigravitarie. Paziente, abbiamo detto paziente sta. Prendiamo un paziente diciamo normale, quindi con un'obiettività neurologica che poi alla fine risulterà negativa. Abbiamo detto l'andatura è un'andatura regolare, il Romberg è negativo, non ci sono oscillazioni al Romberg. Lo facciamo distendere sul lettino e si chiede al paziente di sollevare le braccia, entrambe, quindi una prova antigravitaria, di tenerle sollevate ad occhi chiusi. Soggetto normale mantiene la posizione che si chiama posizione di Mingazzini per gli arti superiori. Poi c'è una posizione di Mingazzini sensibilizzata, cioè si chiede al paziente di sollevare le braccia tenendo le palme in su, si dice come portare un vassoio. Condizioni di normalità, non c'è diciamo deficit di forza poiché non c'è sotto il slivellamento alle prove antigravitarie. Al contrario, ovviamente un paziente che presenta un deficit di forza avrà un sottoslivellamento con pronazione superiore destra, superiore sinistra, a seconda che era stato, diciamo, colpito l'emisfero destro, l'emisfero sinistro. Questa si chiama prova antigravitaria e Mingazzini agli arti superiori. Stessa cosa per gli arti inferiori, si chiede al paziente di sollevare le gambe entrambe mettendole a squadra e si vede se c'è un sottoslivellamento da una parte o dall'altra. Quando non si è certi, perché il paziente compensa, eccetera, si fa il Mingazzini sensibilizzato o Barré, si chiede al paziente di mettere pancia sotto con le gambe, diciamo, a squadra e si vede in quel caso se c'è un deficit di forza, perché progressivamente l'arto interessato tende a cadere sul piano del letto. Queste sono le prove antigravitarie. Poi ci sono le prove, sempre prove muscolari segmentarie, cioè noi andiamo a valutare se c'è un segmento dell'arto che è deficitario rispetto ad altri segmenti. Per esempio, per gli arti superiori andiamo a valutare la prova del bicipite o del tricipite o dell'estensore comune delle dita o dell'interosseo o dell'opponente, trapezio. Per gli arti inferiori andiamo a valutare la muscolatura prossimale, la muscolatura distale, quindi diciamo scomponiamo gli arti in vari segmenti e andiamo a valutare, diciamo, la situazione muscolare distrettuale. Voi capite bene che per questa valutazione distrettuale, quando è che viene importante, in quale tipo di patologia? Del sistema nervoso centrale o periferico? Quindi diciamo che l'antigravitario è per il sistema nervoso centrale e il distrettuale è per la valutazione periferica, perché noi potremmo avere un bicipite deficitario ma un bicipite normale. Mettiamo il paziente in Mingazzini e il paziente viene in Mingazzini senza sottosviluppamento. Quindi, come vedete, che queste prove della forza ci indirizzano anche loro verso la periferia, verso il centro. Poi ancora abbiamo la scala, l'MRC. L'avete mai sentita? No? Quindi diciamo è una valutazione oggettiva della forza, perché mi sembra che questa forza è più o meno, no, la forza è a un MRC. L'MRC va da 0, assenza di movimento, a 5, forza normale. Poi ci sono tutti i gradi intermedi, quindi assenza di movimento 0, accenno alla contrazione 1, 2 movimento attivo a gravità eliminata, 3 movimento attivo antigravitario, 4 contro resistenza, 5 forza normale. Quindi questa è la forza. Poi abbiamo il trofismo. Il trofismo, che cosa si intende per trofismo? Se il muscolo è normotrofico, ipotrofico o atrofico. E se, diciamo, questo trofismo è differente tra un lato e l'altro, cioè quindi se c'è una asimmetria, quindi nel qual caso possiamo pensare a qualcosa di distrettuale, per esempio un gastrocnemio, un polpaccio normotrofico e l'altro atrofico, che pensate? Come? Non è più periferico. Certo, un disturbo periferico, per esempio una radicolopatia S1 dal lato in cui c'è una radicolopatia importante con amputazione della radice, eccetera, quindi una ipotrofia muscolare, diciamo, distrettuale. Invece poi abbiamo, per esempio, una ipotrofia che interessa e tutte e due i tibiali, tutti e due i gemelli, entrambi gli arti inferiori, più distale che prossimale, simmetrica, beh, lì non è un problema distrettuale, ma un problema generale, diverso. Per esempio parliamo delle distrutture muscolari, credo. una Steinert tipo 1, tipo 2, eccetera. Quindi in quel caso la ipotrofia è simmetrica, non è distrettuale, quando quindi, ovviamente la situazione è una situazione che interessa tutto l'organismo, oppure può essere distrettuale se c'è un problema locale, tipo problema radicolare. Va bene? Vi volete fermare? No. E poi il tono muscolare, che cos'è il tono muscolare? Quindi la resistenza che il soggetto effettua alla mobilizzazione passiva. Va bene? Quindi abbiamo un tono muscolare che ci può essere un ipertono muscolare, un ipertono che a sua volta può essere piramidale ed extrapiramidale, questo lo faremo, non so se l'avete già accennato da qualche parte, se avete fatto i pazienti con ictus ipertono piramidale, com'è? Già dovreste sapere. Che hanno stati qualche secondo? Sì. Com'è l'ipertono extrapiramidale? Quale è a serra manica? Piramidale e a serra manica. E a serra manica, no, bravo. L'essere piramidale? Vabbè, già abbastanza. Diciamo che l'ipertono piramidale è un ipertono che ricorda il fenomeno del coltello a serra manico, per cui ha la mobilizzazione passiva, la resistenza è massima all'inizio e poi c'è un cedimento improvviso dell'arto, no? Come il coltello a serra manico, che uno all'inizio ha difficoltà ad aprirlo e poi c'è lo scatto. Invece l'ipertono extrapiramidale è un ipertono plastico, cioè c'è l'opposizione al movimento diciamo di controresistenza che è uguale dall'inizio alla fine del movimento col fenomeno della coltella. Non ho capito se vi volete fermare o meno. Allora io direi una cosa. Ci fermiamo veramente 10 minuti e così poi cerchiamo di finire prima delle 6, perché non so se qualcuno di voi ha necessità di andare via prima. Allora 10 minuti esatti, sono le 4.35 alle 5.24. Okay. Motoria e si esplica con varie prove. Una delle più frequenti è la prova indice naso, cioè si chiede al paziente di fare un movimento che consiste nel toccarsi il naso con la punta del dito, prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. Questa si chiama prova di coordinazione indice naso, oppure di toccarsi il ginocchio col calcagno, quindi il calcagno di un lato tocca il ginocchio nell'altro arto inferiore. queste prove, indice, naso, calcagno e ginocchio, sono molto importanti quando noi andiamo a valutare, diciamo, la funzionalità, secondo voi, di quale distretto del nostro cervello, diciamo così, il cervelletto. Perché sono, diciamo, proprio un indice di coordinazione motoria. Noi sappiamo che il cervelletto ha la funzione di, diciamo, coordinare il movimento, quindi è un è la parte del nostro, diciamo, sistema nervoso centrale che è deputato alla coordinazione motoria. In condizioni normali abbiamo quindi questo movimento effettuato correttamente, indice, punta del naso, occhi aperti, occhi chiusi, fatto correttamente, eccetera. Però ci possono essere varie situazioni patologiche, come per esempio una scomposizione del movimento nell'effettuare questo movimento qui, che consiste, diciamo, o nell'oscillazione ad ampie scosse, e queste scosse sono tanto più ampie più si avvicina alla mira. In questo caso, diciamo, molto frequente nei pazienti affetti da sclerosi multipla con compromissione cerebellare. Oppure, diciamo, un movimento che alla fine, diciamo, quando il soggetto tocca la punta del naso, c'è un tremore proprio distale, un tremore terminale che si chiama frenage. Quindi frenage, quando, diciamo, nel momento in cui si deve toccare il naso, c'è, cioè, un tremore, oppure una scomposizione del movimento come movimento ad ampie scosse, che sono tanto più ampie quanto più ci si avvicina alla mira. Lo stesso dicasi per l'arto inferiore: difficoltà di toccare col calcagno il ginocchio, e quindi tremore quando ci si avvicina al ginocchio, oppure scomposizione del movimento nelle forme più gravi. O ancora la valutazione dei movimenti ripetuti, tipo battere palmo dorso della mano sulle ginocchia, o ancora fare questo movimento qui, come di avvitare lampadine, o ancora di fare dei movimenti fini, come il finger tapping, cioè fare rapidamente andate a ritorno questo movimento, che può essere diverso da una mano all'altra. Insomma, ci sono varie prove per la coordinazione. Poi l'altro sistema che viene studiato è la sensibilità. Quindi abbiamo delle sensibilità superficiali e delle sensibilità profonde. La sensibilità superficiale qual è? Tattile, termica e dolorifica. Quindi tocco, caldo, freddo, dolore, punta smussa o punta, diciamo, o punta o punta smussa. Poi abbiamo le sensibilità profonde, come abbiamo il senso di posizione, il senso di vibrazione e la kinestesia, cioè il movimento nello spazio. Poi abbiamo dei disturbi che possono essere soggettivi, ma che non ci rientriamo. Poi abbiamo ancora un altro sistema, è quello dei riflessi. I riflessi che possono essere superficiali, profondi. Abbiamo i riflessi superficiali, sono i riflessi addominali, premasterico e riflesso anale. E poi abbiamo i riflessi profondi, che sono gli osteotendinei. Abbiamo detto che gli esami strumentali attualmente ci sono di molto aiuto. Questa è una TAC cerebrale, la quale TAC, diciamo, in realtà è solo un esame che viene effettuato al pronto soccorso proprio per dirimere se siamo di fronte a una emorragia o intraparenchimale, suprarachnoide, eccetera, perché con la TAC ovviamente il sangue si vede molto bene, quindi se siamo nel caso di un'emorragia la TAC è positiva, nel caso di una sofferenza ischemica, per esempio un ictus ischemico, la TAC nelle prime ore è negativa, poi si positivizza successivamente. Poi abbiamo l'angiotac, vedete qui abbiamo che un emisfero comprime l'altro, c'è uno shift, si dice, della linea mediana, cioè uno spostamento della linea mediana, perché c'è un grosso edema che chiude completamente i ventricoli, vedete qui il ventricolo non c'è più, c'è lo spostamento della linea mediana, qui c'è un edema cerebrale importante con shift. Poi tra, diciamo, gli esami strumentali del rapide, anche qui abbiamo la TAC, l'angio-TC e la risonanza magnetica del midollo. La risonanza magnetica cerebrale, vabbè, questo è il risparmio. Tra gli esami, uno degli esami diciamo importanti in neurologia è la puntura lombare. Ne avete mai sentito parlare? Sì. E viene effettuata in decubito laterale, vedete il paziente viene chiesto di porsi su un fianco con ginocchia flesse per aumentare lo spazio, viene effettuato il punto di regole a livello delle creste iliache e si va con la puntura lombare a prendere il liquido cerebrospinale per vedere se in questo liquor c'è il sangue nel caso delle emorragie, oppure ci possono essere delle cellule infiammatorie nel caso di processi infettivi del sistema nervoso centrale, o ancora se ci sono delle proteine nel caso della sindrome di Guillain-Barré. Quindi diciamo è un esame abbastanza invasivo che però ci può dare delle utili informazioni nel caso in cui, diciamo, la diagnosi non è certa. Altri esami diagnostici sono l'elettroencefalogramma, il quale viene effettuato soprattutto nel caso, diciamo, di lessia, oppure nel caso di encefaliti, o ancora nel caso di disturbo di coscienza o disturbi del sonno, nel caso della morte cerebrale, proprio nel caso in cui appunto ci sia un elettroencefalogramma piatto e si sospetta una morte cerebrale, si attiva tutta la procedura per la morte cerebrale, che consiste nel riunire una commissione fatta da medico legale, dal neurologo, dall'anestesista, si fa l'elettroencefalogramma, si vede se è piatto, si vede se il paziente ci sono i riflessi, e questo viene ripetuto ogni 2 ore. Se per 3 volte l'elettroencefalogramma è piatto, i riflessi non ci sono, si definisce il paziente. Sì. Com'è la punta spinale? Fa attenzione in caso di ipertensione endocranica? Cioè nel senso, se c'è un aumento di pressione endocranica non si può fare la puntura spinale? No, nel caso, allora, prima di fare la puntura lombare occorre sempre fare una TAC per vedere se, ecco, quella situazione di prima, no? Il paziente che aveva uno shift, l'edema, eccetera, occorre fare una TAC per vedere se tutto è in asse, perché con la sottrazione di liquor poi ci potrebbero essere dei problemi. L'ipertensione endocranica, diciamo, con la puntura lombare in realtà si fa diagnosi di idrocefalo, per esempio normoteso, o comunque di aumento della pressione endocranica, perché si fa un monitoraggio della pressione. Comunque è una, ripeto, un esame invasivo che va effettuato dopo aver fatto un attacco e aver visto che le strutture sono in asse e che quindi la situazione di liquor non determinerebbe dei problemi legati alla procedura. Allora, abbiamo detto poi ancora il monitoraggio in camera operatoria, noi gli facciamo lo studio dell'elettroencefalogramma nel caso in cui viene effettuata l'intervento sulle carotidi, no? E nell'intervento sulle carotidi per rimuovere le placche nel caso di ostruzione delle carotidi per una placca che è emodinamicamente significativa in quei casi. Allora noi facciamo il monitoraggio perché durante l'intervento, proprio per rimuovere la placca, occorre chiudere la carotide e quindi effettuare la pulizia della carotide e poi riaprirla. Quindi il momento di chiusura, che si chiama clampaggio, noi valutiamo l'attività elettrica cerebrale con l'elettroencefalogramma proprio per vedere se vengono messi in azione i circoli collaterali oppure se c'è una sofferenza dell'emisfero interessato al clampaggio legata al fatto che non vengono messi in azione i circoli collaterali e quindi a quel punto occorre mettere uno shunt, cioè un ponte all'interno della carotide, per cui la carotide viene riaperta, viene posizionato lo shunt, diciamo, allora perché non lo si fa prima? No, perché in realtà il posizionamento dello shunt è una procedura di per sé pericolosa, proprio in quanto legata al fatto che la posizione dello shunt può a sua volta determinare la partenza di emboli dalla placca, per cui si preferisce non farlo, però nel caso in cui c'è una sofferenza cerebrale legata al fatto che il flusso di sangue nel circolo laterale non è adeguato e quindi c'è un rischio che poi il paziente presenti un ictus in seguito all'intervento, si opera lo shunt. E quindi noi in camera operatoria, nel momento del clampaggio della carotide, diciamo al chirurgo se la situazione mediante l'elettroencefalogramma è una situazione di normalità, se i due emisferi sono simmetrici oppure se in seguito al clampaggio l'emisfero interessato si è appiattito, si è rallentato. Quindi diamo una informazione online della situazione del sistema nervoso centrale del cervello e quindi cooperiamo con il chirurgo per appunto decidere che cosa fare, se continuare così oppure mettere lo shunt. Questo è un elettroencefalogramma che è diverso, vedete, tra la veglia, il sonno, eccetera. Altri esami diagnostici in neurologia sono l'elettromiografia. Ne avete mai sentito parlare, visto un elettromiografia? No. Poi verrete in laboratorio da noi, perché io mi occupo di elettromiografia, alla fine del corso abbiamo delle lezioni così pratiche per vedere che cosa è l'elettromiografia e come sono evocati, per avere un'idea di che cosa sono questi esami strumentali. Sono i potenziali evocati somatosensoriali che esplorano la via somatosensoriale centrale, i potenziali evocati motori che esplorano la via motoria centrale, i potenziali evocati visivi e quelli acustici. Quindi diciamo che poi alla fine in neurologia abbiamo, riassumendo un po' le patologie, abbiamo, andando per patogenesi, abbiamo delle malattie degenerative, come può essere il Parkinson, l'atrofia multisistemica, la malattia di Alzheimer, una demenza frontotemporale, una sclerosi laterale amiotrofica, una atassia cerebellare e io metterei anche una sclerosi multipla, primariamente progressiva, perché sembra che appunto la genesi della sclerosi multipla primariamente progressiva sia di natura degenerativa e non infiammatoria autoimmune come si pensava fino adesso. Malattie autoimmuni, ecco, sclerosi multipla con la variante della forma primariamente progressiva, poi abbiamo la neuromelite ottica, l'encefalite, la miastenia gravis, poliradicolonefrite tipo Guillain-Barré, l'avete mai sentita nominare? Sì. O ancora le vasculiti, vedete, queste sono tutte malattie del sistema nervoso centrale che sono autoimmuni, quelle precedenti erano di natura degenerativa. Quindi ho ancora In realtà poi queste si possono a loro volta compenetrare perché una sclerosi multipla è vero che è una malattia autoimmune, però è anche vero che è una malattia demielinizzante, così come la poliomielite acuta è una malattia autoimmune, ma è una malattia a sua volta demielinizzante, e così come la CD, la poliomielite subacuta cronica. Poi abbiamo ancora le malattie infettive del sistema nervoso centrale, quindi infettive, encefaliti, meningiti, malattie prioniche. Abbiamo sentito parlare della malattie prionica. Un capazzo. O meglio. Encefalopatia spongiforme. O ancora Jacob. O ancora abbiamo. Quali altri tipi di patologie abbiamo? Quindi abbiamo detto degenerative, autoimmuni, demielinizzanti, infettive, vascolari. Quelle per eccellenza abbiamo l'ischemia e l'emorragia. O ancora, che ne so, la vasculite è una patologia autoimmune, però è anche vascolare. Quindi comunque emorragia, ischemia. Poi abbiamo delle malattie paraneoplastiche che colpiscono il sistema nervoso centrale. Quali sono queste paraneoplastiche? Per esempio le polineuropatie. Paraneoplastiche perché? Perché sono, si verificano a distanza di tempo dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Per esempio una polineuropatia, una atassia cerebellare, una sindrome di Lambert-Eaton che è come una miastenia però non ha la genesi della miastenia, una encefalite limbica, vedete come vengono, le raggruppiamo proprio per farvi entrare un po' nell'ottica di tutte quelle che possono essere le patologie del sistema nervoso centrale. Quindi abbiamo parlato di varie cose, cioè del primo approccio verso il paziente neurologico, di un esame obiettivo neurologico o esame neurologico e basta. Abbiamo cercato di raggruppare queste malattie del sistema nervoso centrale per patogenesi, quindi autoimmune, demielinizzante, vascolare, paraneoplastica, infettiva. Vediamo adesso invece un livello, diciamo un raggruppamento diverso per livelli, dove si verificano a livello spinale, a livello encefalico inferiore, a livello encefalico superiore. Quindi diciamo è un approccio che invece della patogenesi tiene conto della sede, va bene? Quindi a livello spinale abbiamo i motoneuroni spinali. Quindi vi lascio tutto questo, motoneuroni spinali. A livello spinale diciamo che quale può essere a livello spinale o meglio a livello periferico, potremmo dire, no? Per esempio un problema di natura periferica quale può essere? Tutto il gruppo delle periferico. Ma più che radicolite, perché già a livello, no? Radicolite, quindi processo infiammatorio, tutto il problema periferico delle neuropatie oppure miopatie, due cose abbiamo, nervo e muscolo, o il neuropatico o il miopatico. Il problema periferico, il livello è un livello di muscolo e di nervo. Invece a un livello encefalico abbiamo tutta un'altra serie di problemi, quindi è il livello encefalico basso oppure è un livello encefalico alto corticale. Cerco di semplificarvelo. Livello encefalico inferiore oppure livello encefalico superiore inferiore. Che cosa abbiamo? Il tronco, il tronco encefalo. Quindi che cosa abbiamo a livello del tronco encefalo? Quali livelli abbiamo? C'è tutto scritto, eh? Quindi non mi dovete sforzare molto. Bulbo, ponte e mesencefalo intanto, no? Poi abbiamo il cervelletto, poi abbiamo il diencefalo che è costituito da l'ipotalamo e il talamo e poi i ganti della base. Quindi diciamo tutto questo è a un livello encefalico inferiore, tronco, quindi lungo ponte mesencefalo, cervelletto, talamo, ipotalamo e ganti della base. E poi che cosa rimane? Tutto il livello corticale superiore, che è costituito, questo non lo dovete dire voi per come mi chiamate così, dalla corteccia. La corteccia d'altra parte è, diciamo, è la zona che è la filogeneticamente più recente, quella del livello di coscienza, del livello superiore, delle connessioni, del livello, diciamo, cognitivo. Il livello encefalico inferiore controlla il respiro, controlla l'equilibrio, i movimenti coordinati, invece il livello encefalico superiore o corticale, corteccia, memoria, schema motorio, quindi coscienza, l'elaborazione del sensorio, del vissuto, significato emozionale, riconoscimento degli stimoli, cioè tutto un livello, diciamo, alto. Quindi abbiamo già un po' accennato alla funzione del sistema piramidale, abbiamo detto funzione motoria, ipertono piramidale, poi sistema extrapiramidale, coordinazione e ipertono plastico, poi abbiamo parlato del cervelletto quando abbiamo detto della coordinazione, quindi sistema cerebellare, coordinazione motoria, vedete come tutto adesso rientra un po', no? Quindi sistema piramidale motorio, extrapiramidale tono, motilità automatica, controllo, cervelletto, coordinazione motoria e statica corporea, l'equilibrio. Questo andiamo avanti. Sistema piramidale, e questo ci serve anche per comprendere poi quando introdurremo l'argomento dell'ictus, della via piramidale, del sistema motorio, dell'emiplegia, no? Quindi sistema piramidale, che cosa comprende la via piramidale, la via motoria? Questa la dovete sapere benissimo, perché la via piramidale e la via motoria è quella su cui voi andrete ad agire per le depilazioni. No? La via motoria è il fascio cortico-spinale, cortico quindi corteccia, motoria, area motoria, che sarebbe l'area, viene definita con 1, area 4, 4, 6, eccetera. La 4, quindi l'area motoria dove è situata? Diciamo, facciamo così un momento di spartiacque. Solco, scissura di Rolando, dove è situata? Anteriormente la scissura di Rolando, quindi c'è l'area motoria, l'area 4, da cui parte il fascio spinale. Cortico spinale che fa? Corteccia, questo grosso fascio si chiama piramidale perché? Perché le cellule sono piramidali. Ma quante ne sono queste cellule piramidali? Allora, le cellule piramidali sono pochissime, sono il 4% della via corticospinale e nonostante questo danno il nome alla via piramidale, che si chiama proprio piramidale perché contiene queste cellule a piramide, a forma di piramide, che sono però pochissime e sono quelle però molto importanti perché determinano il controllo del movimento fine, del movimento raffinato. Quindi abbiamo questa via piramidale che parte dall'area motoria, poi che fa? Attraverso la capsula interna, a livello, sì, diciamo, parliamone in maniera un po' ancora più grossolana perché poi la faremo quando facciamo il ictus, a livello del livello encefalico inferiore, quindi gran parte dei cus, una piccola parte del corpo collaterale, quindi controllo, diciamo, depulsazione a livello vulvare, quindi diventa controlaterale della gran parte, poi una piccola parte diventa una, e si va a portare a livello del midollo spinale con una certa rappresentazione. Poi dal midollo spinale c'è il contatto con il secondo neurone di moto, fuoriuscita attraverso le corna anteriori, la biomotoria, posteriori sulla sensibilità, e si va a portare a livello del muscolo. Quindi la biomotoria, se un emisfero, l'emisfero destro, è colpito da un ictus, avremo una plegia controlaterale, quindi emisoma, oppure brachio, oppure fascio brachio, oppure brachio plurale, cioè, dipende dall'entità. Va bene? Vedete, area 4, homunculus di Penfield, ve lo ricordate l'homunculus di Penfield? Poi lo faremo, capsula interna, arti, eccetera. Avremo quindi una sofferenza della via piramidale, darà luogo a una alterazione della motilità volontaria, che può essere paresi o plegia. Quando è che c'è la paresi e quando c'è la plegia? Paresi è un deficit completo di... La plegia è un deficit completo. È completa. Paresi è quella della sensibilità e cosa? Tono muscolare, abbiamo un ipertono, abbiamo detto nel sistema nervoso centrale, se c'è una sofferenza nel sistema nervoso centrale aumenta il tono muscolare, ma aumentano anche i riflessi. Quindi ipertono e iperreflessia. Questi ve li risparmio a quest'ora. Quali sono i riflessi che voi conoscete per l'arto superiore e per l'arto inferiore? Bicipitale, tricipitale, radioflessore, cubito pronatore, arto inferiore, il patellare, l'achilleo, che sono i più importanti. Abbiamo detto alterazione dei riflessi, aumento dei riflessi, iperreflessia, o addirittura questo, diciamo, ci può essere un allargamento dell'area reflessogena, cioè il riflesso è talmente vivace che anche se non si va proprio nell'area per evocare il riflesso, ma si va accanto, si evoca lo stesso allargamento dell'area che determina il riflesso. Poi abbiamo riflessi polifasici, o addirittura ci può essere un clono, esauribili, neosauribili. Avete mai visto un clono? Sì. Questi pazienti gravi, un clono, diciamo, esauribile, che dopo alcuni sforzi si ferma, oppure neosauribile, a meno che voi non lo bloccate. Poi abbiamo detto i riflessi superficiali, che sono gli addominali, superiore, medio e inferiore, il cremasterico, l'anale, il plantar cutaneo, il corneale, il faringeo. Poi abbiamo i riflessi, quindi patologici. Che significa il riflesso patologico? Sono delle risposte motorie complesse o meno, che appaiono come dei fenomeni di liberazione dal controllo supraspinale. Quindi io, che cosa avevo detto io fin dall'inizio? Che un aumento dell'eccitabilità corticale determina un aumento del riflesso, quindi ipereccitabilità, sistema nervoso centrale, ipoeccitabilità, interessamento del sistema nervoso periferico. Segno di Babinski, l'avete mai visto che cos'è? Si, diciamo, si effettua una leggera pressione con una punta smussa sulla pianta del piede del paziente. Allora, in condizioni normali questa pressione determina una flessione dorsale delle dita, una flessione delle dita meglio. Nel caso, diciamo, di patologia del sistema nervoso centrale, abbiamo una estensione delle dita, e si dice che il riflesso di Babinski è lento e maestoso, proprio perché abbiamo questo movimento di allargamento, di estensione dell'alluce e di allargamento di tutte le dita. Quello è segno della compromissione della via motoria centrale, della piramidale. Quindi si dice Babinski presente quando appunto determina sfiorare la punta della pianta del piede del mago smusso, determina questa estensione delle dita del piede e soprattutto dell'alluce. Movimento lento e maestoso. La flessione, che in condizioni normali si dice riflesso cutaneo plantare o segno di Babinski, assente. L'ipertono, abbiamo detto, è un aumento della resistenza alla mobilizzazione passiva, abbiamo detto anche, abbiamo già anticipato un ipertono piramidale, extrapiramidale, l'ipertono piramidale è un ipertono elastico e plastico è quello extrapiramidale. Sistema extrapiramidale poi lo faremo nel dettaglio col Parkinson. Comunque viene interessato, diciamo, interessa ai ganti della base, questo per una vostra così rispolverare un po' le nozioni. I ganti della base, vi ricordate quali sono? Caudato, putamen e pallido. Caudato e putamen formano il corpo striato. Poi c'è la regione subtalamica, il nucleo rosso e la sostanza nera del mesencefalo, delle connessioni del risparmio. E finiamo qua, penso che anche la vostra attenzione sia un po' arrivata, perché mi sento parlare e questo mi dà un po' fastidio. Comunque, allora, noi ci vediamo mercoledì prossimo. Mi sembra che l'aula non è questa, comunque lo vedete in portineria, e più o meno alla stessa ora, 15, 15 e 10, dipende un po' da quando riesco a liberare, va bene? Non mi sembra sia questa, è questa? Mi conviene chiederlo in portineria, perché come quest'aula in realtà non sarebbe disponibile, ci possono essere dei cambiamenti. Voi dovete dire fisioterapisti Santa Lucia. Ma mercoledì venite solo per me? Sì. O avete altre cose? No. E lunedì? Anche venerdì. Venerdì non c'è niente. No, Sì, domani non verrò.